che nel mondo non va. De, tu sei de, tu sei de, tu sei de, tu sei Deus. E qualcosa qui nel mondo non va. Ti sei distratto e qui c'è il caos. Che casino che è scoppiato qua giù. Si dorme sempre con il colpo in canna. Che casino che è scoppiato qua giù. L'uomo non capisce più che cos'è la vita. Che casino che è scoppiato qua giù. L'uomo non conosce più il senso della vita. Che casino che è scoppiato qua giù. Uccidono da quando tu stai già in pancia. Che casino che è scoppiato qua giù. Ti uccidono da quando tu stai già in pancia. Che casino che è scoppiato qua giù. Te, tu sei Deus. Te, tu sei de, tu sei de, tu sei de, tu sei de. Conciato. Che casino che è scoppiato qua giù. E tutte le città sembrano cimiteri. Che casino che è scoppiato qua giù. Ti uccidono da quando tu stai già in pancia. Che casino che è scoppiato qua giù. Ti uccidono da quando tu stai già in pancia. Che casino che è scoppiato qua giù. Te, tu sei te. Scoppiato qua.